Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sarà un evento mai visto, quattro papi idealmente presenti in piazza San Pietro per la canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Ci sarà Francesco e concelebre, quasi certamente, se le condizioni di salute non glielo impediranno, anche Papa Benedetto XVI. E per la prima volta sarà trasmessa, grazie a Sky, una messa del Papa in 3D, e sarà proprio questa messa di canonizzazione uno degli eventi più significativi della storia recente del cristianesimo. Che qualcosa stava cambiando a Roma, mi sono accorto queste mattine. Le metropolitane sono improvvisamente piene di personaggi che non ho mai visto. Sembrano usciti da un romanzo d'appendice. Personaggi strani, che ti guardano in maniera strana, vestita in modo strano. E leggo sui giornali che sono bande di borseggiatori che vengono da tutto il mondo perché convergeranno in una sorta di caccia alla volpe a Roma. Perché? Perché accadrà qualcosa di importante. Me ne sono accorto questa mattina all'uscita della metropolitana, lunghissime file di gabinetti chimici, ma lunghissime, a Piazza della Repubblica, a Ottaviano, ovunque, e già sono, diciamo, praticamente in uso e lasciano la loro traccia olfattiva per le strade. Perché? Perché accadrà qualcosa che probabilmente non era mai accaduto nella città eterna. Ci sarà la canonizzazione di due papi che per la prima volta sarà trattata con una sorta di regia mediatica mai vista prima. La Chiesa finalmente, o per altri a torto probabilmente, penseranno purtroppo, sta usando tutti i mezzi a sua disposizione, i mezzi che mette a disposizione la moderna tecnologia comunicativa, per dare un grande evento. Allora vi dico cosa accadrà. Prima, il 27 aprile, beh, è risaputo, ci sarà la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II. Questo era già un evento in sé che ha qualcosa di unico. Due papi che diventano santi allo stesso periodo. Due papi che hanno avuto dei pontificati a distanza di decenni l'uno dall'altro. Papa Giovanni, ve lo ricordate, il Papa buono, quello della notte, della luna, della carezza ai bambini. Bisogna averci un po' più di 50 anni per ricordarsi l'epica di Papa Giovanni. Il Papa del Concilio Vaticano II, il Papa è stato testimone di uno dei momenti più cruciali della guerra fredda, l'attacco a Cuba. Infatti mi ricordo che i medaglioni con la faccia di Papa Giovanni, di Khrushchev e di Kennedy erano, diciamo, all'ordine del giorno quando io ero bambino, facevo la seconda elementare, che erano accaduti gli episodi di Cuba. E l'altro è l'altro Papa Wojtyła, di cui abbiamo traccia recente nella nostra memoria, il Papa santo subito, ma diventa santo dopo 8 anni circa dalla sua morte. Questo grande amplen di due papi che diventano santi assieme, potete avere tutto da un sito, duepapisanti.org. Ci sarà un'applicazione gratuita sia in Android che in iOS, per il Mac, in lingua italiana, spagnola, in tutte le lingue, che appunto si chiamerà Santo Subito, e permetterà a tutti di interagire con questo tipo di attività. Ma soprattutto ci sarà anche una grande diretta. Prima sarà la notte bianca, la sera prima, una notte bianca di preghiera in tutta Roma, e poi ci sarà una grande diretta in un numero impressionante di cinema in tutta Italia. Ci sarà la messa di santificazione dei due papi in 3D. Beh, voi come la pensate? 800 24 00 24. Io guardo con attenzione e con curiosità questo evento, mi appassiona e mi interessa e mi diverte l'idea che ancora ci sia qualcuno che dà valore alle virtù eroiche, ma mi piace allo stesso tempo, mi trovo abbastanza intrigante l'idea che ci sia questo in profondo, radicale, grosso apparato mediatico intorno a questo evento. Sto aspettando di recuperare l'ospite che non avevamo pensato che mi supportasse in questa puntata. Se non lo troviamo, ce la farò da solo, ce la farò con voi che mi darete il vostro parere. Quanto vi colpisce nel vostro immaginario personale, nella vostra emotività, quanto cambia la vostra vita il fatto che da domenica domenica ci saranno due nuovi santi, sono due papi che hanno comunque segnato profondamente e radicalmente la storia di questi ultimi decenni. 800240024. Verrà trasmesso gratuitamente anche in tutti i cinema dell'Europa, Europa anche del Nord, America del Nord, America del Sud, insomma un grande evento, e sarà trasmesso nei cinema gratuitamente. Sono già 120 cinema che hanno aderito in Italia, un evento grazie alla nostra tecnologia, ma che si avvale del CTV. Il CTV sarà il produttore, noi avremo 13 telecamere in piazza San Pietro per poter trasmettere in maniera inedita questo evento. Monsignor Viganò, il direttore del Centro Elisio Vaticano, che era presente a questa conferenza stampa insieme al direttore della sala stampa. Ecco, un nome su tutti, Monsignor Viganò, che è il grande regista di questa operazione di santificazione mediatica. È l'uomo che in parte è comunque, ma non lo dico in senso negativo, è il regista di tutto quello che voi leggete, sapete, percepite giorno per giorno della grande parabola in diretta su Papa Francesco. È l'artefice quella immagine fantastica al momento del passaggio del testimone da parte di Papa Ratzinger, quell'elicottero bianco che si alza su Piazza San Pietro e porta via il Papa verso un orizzonte impreciso, per fatto un giro sulla Città Santa, sulla Gregoriana, sull'Università Lui Cara, lo porta via perché non doveva più riapparire. Poi invece no, riappare Papa Ratzinger, riappare in questa sorta di clonazione di papi, duplicazione di papi, si vedono, riappaiono, si abbracciano, si inginocchiano insieme, pregano assieme. Sembrava un'immagine così lontana dalla nostra capacità di elaborare un papa per volta, ma l'abbiamo già elaborata, già non ci facciamo più caso. Però è interessante capire dietro a tutto questo quali siano i meccanismi, le motivazioni, il sostrato culturale, territoriale che muove tutto questo grande evento. E per farmi aiutare in questo, questa mattina ho al telefono Massimo Franco. Massimo Franco, buongiorno. Buongiorno a te. Massimo Franco, dottista politico del Corriere della Sera, è uno scrittore, è autore del suo ultimo libro che di questo tratta, Il Vaticano secondo Francesco, edizioni Mondadori. Cominciamo a capire, è qualcosa di totalmente nuovo, di inedito, ma sempre ogni papa comunque dà dei segnali nuovi. Ma mai quanto adesso c'era stata una potenza di fuoco mediatica così precisa, così implacabile, ma anche così provvidenziale come quella nata attorno alla figura di Papa Francesco. Ma tu hai fatto un'indagine molto accurata per vedere l'origine, la provenienza, cosa c'è dietro Papa Francesco. Non è che è apparso improvvisamente questo Papa simpatico, bonaccione, che abbraccia tutti, che muove tutti, che ha fatto in un anno dimenticare in maniera così radicale tutta quell'immagine così compromessa della Chiesa, divisa fra una banca che sembrava un paradiso fiscale per depositi di malavita organizzata e storie di pedofilia che facevano allucinare. Improvvisamente si è tutto dimenticato. Cosa c'è dietro a questo? Non è un caso. Beh, intanto è un papa nuovo perché viene dalle dimissioni di Benedetto XVI, questo è figlio di quel gesto traumatico che non a caso non era successo per 700 anni, quindi questo imprime una grande novità. E il fatto che sia stato scelto un papa gesuita e un papa argentino, ma soprattutto un papa outsider, perché un papa estraneo alla mentalità della curia, beh, questo imprime alla novità qualcosa di epocale, perché questo è il papa figlio di un conclave che è stato connotato da un forte spirito anti-italiano, proprio per gli scandali a cui tu facevi cenno prima. Cos'è il club del veleno e del pugnale che tu citi nel tuo libro? Sì, questo è stato un americano, uno statunitense che mi ha detto che gli italiani venivano chiamati nelle congregazioni che hanno preceduto il conclave the poison and dagger lobby, cioè la lobby del pugnale e del veleno, quindi c'era un'immagine negativa. Tra l'altro mi è stata confermata indirettamente a Buenos Aires quando mi hanno raccontato che una signora incontrò Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, in una parrocchia argentina, e gli disse prima del conclave: Eminenza, so che lei sta andando a Roma, porti con sé un cane e gli faccia assaggiare tutto quello che le danno da mangiare. Ora naturalmente questo non dimostra che il Papa fosse in pericolo di vita, ma certamente dimostra una percezione molto negativa che al di fuori dei confini europei avevano della curia romana e dei giochi e degli intrighi vaticani. Cioè da una situazione da Borgia proprio, sta attento ti fanno la pelle, cioè, saranno fatti una fama modo. I vescovi italiani che adesso, che questo ha impedito naturalmente, ha dato una sorta di embargo, di divieto totale al fatto che si facesse un papa italiano. Beh certo, si è avuta una chiara sconnessione tra i giochi che gli italiani, che numericamente erano la maggioranza relativa del conclave, facevano sui propri candidati, e il fatto che invece copertamente gli episcopati americani, latinoamericani, centroamericani e nordamericani avessero già impostato la loro strategia per il conclave, tanto che il presidente della conferenza episcopale statunitense, Timothy Dolan, disse che entro il 14 si sarebbe avuto il Papa, poi in realtà l'abbiamo avuto il 13, ma questo che vuol dire? Vuol dire che loro avevano già studiato i passaggi, e c'è una conferma indiretta, perché la domenica prima del conclave, a Piazza Navona, lo racconto nel libro, un prete canadese, Thomas Rosica, incontrò Bergoglio. Cominciarono a passeggiare per Piazza Navona e questo prete disse: ma Eminenza, la vedo un po' nervosa, che cos'ha? E Bergoglio rispose: non so bene che cosa mi stanno preparando i miei fratelli in conclave. Quindi vuol dire che in realtà la cosa era molto meno improvvisata di quanto non sia poi apparsa. Beh, Bergoglio c'era già andato vicino ai tempi dell'elezione di Papa Ratzinger. C'era andato vicino, anche se lui aveva rifiutato di essere il candidato opposto a Ratzinger e anzi aveva fatto deviare tutti sulla candidatura di Ratzinger. Ma quello che vorrei che fosse chiaro, questo non è un Papa bonaccione come sembra, questo è un Papa che ha un grande senso del potere e del ruolo del Papa, è una persona che sa arrabbiarsi, mi dicono, quando non viene seguito quello che lui ordina di fare, ed è un Papa che in qualche modo viene da una megalopoli globale. Questa è la prima volta che abbiamo un Papa che viene da una grande città, Buenos Aires ha 15 milioni di abitanti, quindi anche questo non va sottovalutato. Quindi c'è una specie di... scusami, trattare col potere in modo molto duro. Massimo, c'è una specie di cosmesi mediatica, cioè vedere il Papa con l'agnellino in braccio, che prende il bambino, che scende dalla macchinetta utilitaria antica, che fa delle operazioni che addirittura sembra che persegua, va a giro con la valigiona di pelle smandrappata, si porta la tiara sotto braccio come se fosse un qualsiasi mortale. Sono operazioni casuali o fanno parte del suo modo d'essere? In realtà è tutt'altra cosa. E noi ci abbiamo abboccato. Secondo me non è una cosa artificiosa, è una parte della sua personalità, è la parte pubblica della sua personalità. Questo Papa effettivamente è autentico. Quando io a Buenos Aires ho chiesto: ma il Papa qui com'era? Cioè esattamente come a Roma, e mi hanno indicato un appartamentino nella Plaza de Mayo, dove c'è la Casa Rosada, ma c'è anche la cattedrale. Hanno detto: vede, la prima casa Santa Marta in realtà è quella. E mi ha rinunciato l'appartamentino, che lui aveva rinunciato anche lì alla villa dell'arcivescovo per stare in una casetta piccola piccola, e non è un Papa costruito. Tu non trovi che però che sia, nel tuo libro non dici che sia un caso proprio la scelta di Santa Marta, l'ex lebbrosario, c'è anche proprio un valore sottile al fatto che il Papa abbia scelto lì la sua residenza? Certamente, quello è il valore, qualcuno ha detto, è la dimostrazione della sua scelta per i poveri. Credo la chiave sia però anche un'altra, cioè un Papa che sa quanto i palazzi vaticani avvelenino l'ambiente, lo abbiano avvelenato ultimamente, isolino il Papa e gli rendano impossibile di essere padrone della sua agenda, quindi del suo tempo. Quindi lui ha preferito un luogo che è una specie di piccolo porto di mare, che però lo rende accessibile agli altri e soprattutto nella sua ottica gli permette di avere ancora il contatto con la realtà. Poi bisogna vedere se è sempre così, perché in realtà ho l'impressione che certe volte il Papa non sia informato correttamente di quello che succede a Roma, però di certo lo spirito è quello. Non è che sia facilissimo. Sentiamo Marzia, prima ascoltatrice. Marzia, buongiorno. Sì, Marzia. Ah, buongiorno. Io non sono religiosa, quindi anche questo aiuta. Io questo Papa non lo amo, non me ne importa niente che ci sia o non ci sia. E poi tutto questo. Beh, se lei non è religiosa, non è obbligata ad amarlo. No, certo. Però per me è un grande furbo, un grande furbastro, è molto intelligente, è un gesuita, non lo dimentichiamo. Tutto ciò che prepara, secondo me, è molto molto costruito col cervello. E anche questo avvenimento, Oscar, non lo guarderò perché mi arrabbio. Ma perché si arrabbia? Scusa, perché così avvelenato? Perché mi irritano queste cose, mi irritano. Ma le lasci diciamo alla valutazione delle persone per cui ha un valore profondo? Ma certo, che vuole lo faccia pure. Nemmeno io la guardo, ma non che sono arrabbiato, perché quel giorno andò a fare una passeggiata, non so, non mi dà nessun fastidio. Sì, mi dà fastidio perché stanno vicino a casa mia e dovrò espatriare per una giornata, solo per quello. Ma me lo posso immaginare. Mi prendo l'onere, visto tanta gente è felice. Comunque, di questo. Ma a me sembra un grandissimo show e nient'altro, non mi convince per niente. Anche ma cosa l'avrebbe convinta invece? Lei ha una dimensione totalmente laica e siamo d'accordo. Questo papà dice che è un furbacchione, dice lei, sì. Però è qualcuno che comunque incarna più da vicino quelli che sono gli ideali popolari, quello che vorrebbe vedere una persona credente del popolo in un suo rappresentante del Padre Eterno, cioè la semplicità, sì, quindi è giusto. A me questo qui con le scarpe grosse e che sbaciucchia tutti, con la parola buona, con i finti errori di grammatica quando parla, non mi convince. Si ha detto anche una parolaccia orrenda, sbagliandosi. Sì, ma lì forse non sapeva cosa diceva. C'è stato un giorno in cui sono stata felice. Quando i compagni... Quindi lei preferiva il Papa con le babbucce di Prada, col Camauro, con l'ermellino in testa? No, non ne frega niente. No, mi vabbè, lei è importante. Vabbè, il suo punto di vista rispettabile di una fetta di popolazione che vede solo un gran casino, tanti gabinetti chimici, borseggiatori in giro, albergatori pronti a centuplicare le loro quote, città a ferro e fuoco, e dice ma noi che ce ne importa. Fermiamoci un istante, poi riprendiamo con Massimo Franco. Melog, cronache meridiane. Quello incredibile che lascia ancora stupefatto anche Monsignor Oder, che da 9 anni indaga sulla santità di Giovanni Paolo II. La guarigione prodigiosa di Floribeth Mora Diaz, grazie a cui Giovanni Paolo II sarà proclamato ufficialmente santo, è la più clamorosa delle 4.000 storie di grazie speciali arrivate alla postulazione dalla morte di Papa Wojtyła. Tra le centinaia di migliaia di fedeli che il prossimo 27 aprile invaderanno pacificamente Roma, ci saranno anche i devoti di un altro pontefice, Giovanni XXIII, il Papa Buono, il Papa del Concilio Vaticano II, il primo a inaugurare le uscite in incognito dal Vaticano sull'auto del suo fidato maggiordomo. Il capo della polizia 800240024, facciamo un'analisi profonda di quello che è il meccanismo che ha determinato questa grande rivoluzione nella Chiesa di un anno, di percezione soprattutto. E poi cosa c'è dietro la figura di Papa Francesco, figura che i media stanno facendoci ogni giorno passare per un signore un po' semplice, un bonaccione, quasi un prete all'antica, un accarezzatore di persone, un signore simpatico che sta sulle battute, che telefona alle persone. No, in realtà ci sta facendo capire Massimo Franco, che è l'autore del Vaticano secondo Francesco, il suo ultimo libro edito da Mondadori, che in realtà le cose non stanno esattamente così. È una persona molto capace, molto ben strutturata, insomma una vera e propria arma da guerra che è stata innescata nei tempi giusti. Perché? Perché si ponesse fine o si ponesse rimedio al disastro che stava travolgendo la Chiesa, con le questioni dello IOR, con l'ingestione di tutta la situazione sulla pedofilia, sui corvi, sulle lettere anonime, sui Vatilix, con tutto quello che stava accadendo. Sembrava che improvvisamente la profezia di Nostradamus, dei cavalli di Cosacchi che si abbeverano nelle fontane di San Pietro, stesse per arrivare. Poi parte l'elicottero, un papa se ne va, poi ritorna un po' in sordina, ma arriva un papa che cambia tutto. Massimo Franco, il parere della nostra ascoltatrice, però, che è un parere di persona del popolo, è in parte condiviso anche da illustri osservatori, da cattolici tradizionalisti, da persone che in questo pauperismo esasperato e mediaticamente rappresentato non vedono la chiave giusta per il mantenimento del timone della Chiesa sul sentiero della dottrina, della tradizione, del rispetto alla parola di Dio e via dicendo. Ma io credo che l'ascoltatrice prima rifletta un'opinione pubblica che in parte è su queste posizioni. Credo sia molto difficile capire questo Papa senza le latinoamericane, perché questo è un Papa che, come dicevo prima, viene da una megalopoli, una megalopoli nella quale i problemi sono intrecciati ed esagerati con 20 anni di anticipo rispetto all'Europa. E il fatto che questo sia un Papa che vive di teologia del popolo, religiosità popolare, è qualcosa che in Europa, in un'Europa nella quale il secolarismo ha vinto per adesso, nella quale i cattolici sono minoranza, questo approccio totalmente diverso, di tipo, ripeto, latinoamericano, fa emergere solo il pauperismo. In realtà questa è una visione diversa della Chiesa, senza quelle che sono state le coordinate tradizionali del cattolicesimo. Nel tuo libro cito una frase che spiega molto: tenere l'odor di oveca, averci l'odore di pecora ancora addosso. Esattamente, questo è il modello, non è soltanto un papa argentino, questo è il modello latinoamericano che cerca di conquistare il Vaticano e la Chiesa Cattolica, perché il modello italocentrico ed eurocentrico della Chiesa ha fallito in modo miserabile. E quindi una Chiesa latinoamericana che è molto forte, molto conscia della propria forza, da terra di missione l'America Latina diventa terra missionaria, chiamata a rievangelizzare Roma e il Vaticano. Quindi Ratzinger faceva ancora parte del modello eurocentrico? Assolutamente, ne era in qualche modo un'esasperazione e ne era, se vogliamo dire tutto, un paradosso, perché lui insisteva su un cattolicesimo minoritario che doveva abituarsi ad essere una minoranza creativa, tipo gli ebrei, lui diceva, e tu hai adesso un cattolicesimo latinoamericano o iberoamericano, come vogliamo dirlo, il quale dice: un momento, noi siamo 500 milioni di cattolici, abbiamo una forza enorme, abbiamo una grande voglia di guidare la Chiesa, questo è il nostro modello, cercate di adattarvi a questo. Quindi il conclave è stata una grande sconfitta dell'Europa. Anche perché i seminari e conventi sono pieni di loro, non ci sono, stanno più di europei dentro. I missionari oggi sono loro, un secolo fa erano gli europei che andavano a colonizzare religiosamente l'America Latina, oggi è l'America Latina che colonizza l'Europa e soprattutto il Vaticano. E lui, Francesco, è l'espressione di questo capovolgimento delle coordinate del cattolicesimo, tant'è vero che si parla di un cattolicesimo che vive a testa in giù, perché viene dal sud, la categoria est-ovest non c'è più per questo Vaticano. La categoria semmai è nord-sud, con il sud che colonizza l'Occidente civilizzato, ma secolarizzato. Allora, vediamo un po' quale segno è, visto che è un segno, visto che è un'organizzazione così perfetta. Io mi sono sentito dare del blasfemo perché ho detto: guarda, sembra un produttore televisivo che organizza la serata con i tre tenori, fare la serata dei due papi con la notte bianca prima. Quali sono i segnali che dà? Allora, Papa Ratzinger Papa Wojtyła era un retaggio che comunque si è trovato, doveva essere stato fatto santo a tutti i costi, va tutti i miracoli al posto giusto, non gli appartiene. Ma il ripescaggio di Papa Giovanni, dopo 50 anni, tenendo conto anche del fatto che Papa Giovanni non ha nemmeno i due miracoli necessari per diventare santo, quindi fa un'operazione di volontà papale fortissima per metterli assieme. Che segno è questo? Ma credo che sia il segno di una grande continuità della Chiesa in epoche diverse. Intanto Giovanni XXIII è il Papa del Concilio, e questo Papa attuale, Papa Francesco, è una persona che in fondo chiede un ritorno ai valori del Concilio. Per quanto riguarda Giovanni Paolo II, è stato il Papa della vittoria della Chiesa sul comunismo, sul regime sovietico, ma direi che in comune questi due papi hanno soprattutto una grande apertura al mondo. Questa è la cosa, a mio avviso, che colpisce, cioè sia Giovanni Paolo II sia XXIII rappresentarono una Chiesa che non si chiudeva in se stessa, che non era ripiegata ma cercava di aprirsi al mondo. Siccome questo è un papa che dice: uscite dalle chiese, uscite dalle parrocchie, e penso che il segnale vero sia questo. A Buenos Aires lui ha fatto fare uno studio su quanto, dal punto di vista spaziale, una parrocchia influenza l'ambiente circostante, e se non sbaglio lui stabilì che una chiesa aveva influenza per il 600, in un raggio di 600 metri intorno alla chiesa, quindi creò tante altre piccole chiese e comunque sia dei punti di ascolto dei preti oltre 100 metri. Beh, lui aveva creato una rete, ha fatto un hub, oltre diciamo il potere di irradiazione di questi 600 metri, ha creato tanti piccoli spot perché potesse continuare a tenere diciamo le anime sotto sorveglianza, o perlomeno irrorarle con la grazia divina. Grazie Massimo Franco, ricordo il Vaticano secondo Francesco, editore Mondadori. A domani.